rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa sui temi europei, di temi europei o che raccolgono suggestioni e segnalazioni da giornali europei. Cominciamo dalla Süddeutsche Zeitung, che si è occupata di questa proposta, di cui poi hanno parlato anche i giornali italiani, perché si è esposto su questa idea anche il premier Renzi, che per ora si è detto contrario, e la proposta è quella di un ministro delle finanze per l'area dell'euro. Quante volte si è parlato di tutte quelle, di quei settori in cui all'Unione Europea manca un coordinamento, perché sì, c'è la Banca Centrale Europea, però manca un ministro dell'economia europeo, manca un ministro delle finanze europeo, manca di fatto una politica estera europea, anche se abbiamo una sorta di ministro degli esteri europeo, che sappiamo tra l'altro essere un italiano, un'italiana, Federica Mogherini, però appunto mancano queste figure. Ed sono state la Bundesbank e la Banca Centrale Francese, quindi Bundesbank e la Banca Centrale Tedesca, a chiedere la creazione di questo Ministero delle Finanze per l'area euro. Lo hanno fatto con un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e tramite i due governatori delle due banche, Jens Weidmann per la Bundesbank e François Villeroy per la Banca Centrale Francese. Per molti è stata un po' una proposta indigesta, perché si vede riproporre questo asse, forse ultimamente un po' meno forte, tra Germania e Francia, soprattutto per quanto riguarda i temi economici. Sicuramente non sarà una proposta di cui si discuterà a breve a Bruxelles, però l'importante, credo, e così hanno concordato anche molti osservatori, è che il tema sia stato sollevato e che appunto nei prossimi mesi, nei prossimi magari anche anni, se ne continui a parlare di questo coordinamento finanziario. Soprattutto questo tema viene fuori e appare importante quando ci sono dei momenti di grandi crisi finanziarie e di un'apparente mancanza di coordinamento tra appunto le banche centrali. A proposito di Unione Europea, dell'efficacia dell'Unione Europea, delle sue istituzioni, del fatto che se questa efficacia viene a mancare si rischia lo sgretolamento dell'Unione Europea, lasciamo un attimo da parte la questione Schengen immigrazione e veniamo invece alla cosiddetta Brexit, lo spettro della Brexit, cioè la possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. Sappiamo che non dalla zona euro, in cui non è mai entrata, ma dall'Unione Europea. Il premier Cameron ha promesso anche in campagna elettorale, e secondo alcuni è stata una delle mosse che lo ha fatto vincere con un grande margine le ultime elezioni politiche, il premier Cameron ha promesso ai suoi concittadini un referendum, tra l'altro entro il 2016, proprio sulla permanenza o no all'interno dell'Unione Europea. E ricordiamo che il Regno Unito è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Su questo vi cito un articolo apparso su Tageszeitung, un quotidiano tedesco, e ripreso da Internazionale, che si intitola Un passo indietro per l'Europa. Vi leggo la prima parte. Una pessima scelta di tempo, è il minimo di cui si possono rimproverare il Regno Unito e i suoi amici nell'Unione Europea. Nel mezzo della peggiore crisi mai affrontata dall'Unione, non avevano niente di meglio da fare che negoziare un altro trattamento di eccezione per i britannici. Le norme speciali portano nomi suggestivi come freno di emergenza, cartellino rosso, e dovrebbero servire a convincere il Regno Unito a restare nell'Unione. Almeno questo è quel che sostiene il primo ministro Cameron. Senza un nuovo accordo, il referendum sulla permanenza dell'Unione che il suo governo ha promesso di organizzare potrebbe finire male, minaccia al premier. E vi leggo l'ultima parte. Tusk, che è il presidente del Consiglio europeo, non naturalmente ha cercato di fare da buon mediatore, però secondo Tageszeitung entrambi, Tusk e Cameron, si trovano con le spalle al muro. Per Cameron la proposta avanzata all'inizio di febbraio è comunque un passo avanti, ma non è certo una garanzia di ottenere il consenso dei suoi concittadini, di quelli ovviamente ostili all'Unione Europea. E secondo gli ultimi sondaggi, come abbiamo ricordato anche sabato scorso, nel Regno Unito gli anti-europeisti sono la maggioranza. Cameron in realtà ha una posizione che potremmo definire ambigua, perché per esempio sta cercando di coinvolgere in una battaglia pro permanenza all'interno dell'Unione Europea Boris Johnson, che è un amico ma è anche un rivale, perché sapete che Boris Johnson, il bizzarro, se vogliamo dire, sindaco di Londra, che però a Londra è molto apprezzato come sindaco, tanto che alcuni pensano che la prossima ambizione politica di Cameron sia proprio quella di Boris Johnson, sia proprio quella di fare il primo ministro. Secondo Financial Times il premier britannico avrebbe appunto stabilito una sorta di accordo con Boris Johnson in modo da essere sostenuto dal sindaco di Londra nel convincere il più persone possibili che se tutte queste modifiche che Cameron sta negoziando in sede europea vengono approvate, vale la pena per il Regno Unito restare all'interno dell'Unione Europea. A proposito di purtroppo un altro spettro di uscita, parliamo invece di Grexit, cioè dell'uscita della Grecia dall'Unione Europea. Se ne dico purtroppo perché sembrava scongiurata dopo l'estate, dopo che se ne era parlato tantissimo in luglio-agosto, ma ora si ricomincia a parlarne perché si avvicinano anche le scadenze che probabilmente la Grecia non riuscirà ad onorare di restituzione dei suoi debiti. Il Fondo Monetario Internazionale, anche questo l'abbiamo visto più volte in articoli che citiamo in questa rassegna, il Fondo Monetario Internazionale non sembra poi così convinto a concedere altri prestiti, la Grecia ne ha estremamente bisogno e soprattutto c'è un problema interno alla Grecia. La Grexit è stata scongiurata anche perché sono stati gli stessi greci a un certo punto a preferire di restare all'interno dell'euro e dell'Unione Europea. Però, come ci racconta su Liberation Maria Malagardis, e anche in questo caso l'articolo lo trovate tradotto su Internazionale, Tsipras, il premier Alexis Tsipras, comincia a essere visto come il premier delle promesse mancate. I greci sembrano non condividere l'ottimismo del primo ministro e hanno ricominciato a protestare. Ci sono tante proteste legate soprattutto alle condizioni economiche, perché i prestiti fatti dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario Internazionale sì, certo sono serviti, però la Grecia continua a essere in molte fasce della popolazione un paese sofferente, dove il welfare continua a essere tagliato e dove i ricchi continuano ad avere molti privilegi che il governo Tsipras non sembra in grado di intaccare, e invece le classi meno ricche continuano a soffrire, anzi soffrono sempre di più, perché appunto alcune delle condizioni poste per dare dei prestiti alla Grecia riguardavano il taglio della spesa sociale, quindi taglio per gli ospedali e taglio per i servizi sociali. A proposito di servizi e di welfare, perché in senso più ampio, vi segnalo un articolo apparso su Le Monde che parte dalla situazione dei trasporti pubblici parigini, che sicuramente insomma soprattutto per un europeo, magari per un italiano, ecco, potremmo dire così, magari per uno che viene da Roma, possono sembrare eccezionali, in realtà secondo Le Monde hanno molte pecche, ne hanno sempre di più. Anche qui naturalmente c'è un problema di fondi sempre minori dei comuni, del comune in questo caso di Parigi, e Le Monde però parla in generale del problema del finanziamento dei trasporti pubblici. Tutti ci rendiamo conto che i biglietti che paghiamo, specie magari in città dove molte persone il biglietto non lo pagano, non bastano a coprire i costi di una rete così spesso ampia e capillare di trasporti pubblici, che quindi è il tipico caso in cui appunto una parte del costo viene coperto dai biglietti e un'altra grande parte viene coperto da soldi pubblici. Se però questi soldi pubblici cominciano a scarseggiare e il costo dei biglietti non può essere aumentato più di tanto, ne soffre naturalmente la qualità dei servizi. E in questo caso, secondo Le Monde, è un problema non solo di Parigi ma di tutte le grandi città. Ciclicamente questo problema è stato affrontato. Abbiamo parlato prima del sindaco di Londra. Uno dei motivi per i quali è così apprezzato è proprio perché ha investito tantissimo sul trasporto pubblico e ha migliorato molto soprattutto la famosa Tube, la metropolitana, che davvero è capillare a Londra. E quindi scrive appunto Le Monde: i trasporti pubblici parigini sono sull'orlo del crack, e lo ha sottolineato anche la proporzione di questa emergenza finanziaria la Corte dei Conti francese. Una interessante risvolto della Brexit, per tornare alla Brexit, che forse un po' avrete capito è un po' una mia ossessione, perché mi sembra una cosa così incredibile che uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea possa pensare di uscire da questo grande utopia, da questa grande utopia post seconda guerra mondiale, da questo grande sogno, ma che è anche una zona economica che potrebbe davvero essere rivaleggiare con gli Stati Uniti da una parte e la grande potenza cinese dall'altra, ma tant'è. Insomma, la Brexit, di Brexit hanno parlato molto i giornali britannici questa settimana, anche perché, secondo appunto la stampa britannica, l'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, Vladimir Putin ne trarrebbe vantaggio da questa uscita, Vladimir Putin e la Russia, perché il ragionamento è: più debole è l'Unione Europea, più forte potrebbe essere Vladimir Putin. È un po' tutto da vedere questo, perché comunque Vladimir Putin debole, ma forte poi rispetto a chi? Perché Vladimir Putin è stato in realtà anche isolato, come sappiamo, dalle sanzioni volute soprattutto dagli Stati Uniti e su questa strada delle sanzioni poi seguiti dall'Unione Europea. Ultimissima notizia, visto che abbiamo parlato di Brexit, ne riparliamo ancora, perché su Euronews è apparso un comunicato tutto sommato cautamente ottimista, in cui si dice che l'Eurogruppo non crede a un vero spettro di Brexit o a un vero peggioramento delle relazioni tra Bruxelles, Atene e quindi il fronte dei creditori. Era l'ultima segnalazione per oggi, potete però, se volete, riascoltarci sul sito di radio24.it e poi trovare ancora altri aggiornamenti su quel sito che segnalo sempre, voxeurope.eu. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.